dell'altra Europa. Buon sabato da Federico Taddia e benvenuti all'altra Europa. Eccoci qua in diretta dagli studi di Milano di Radio 24 con il nostro appuntamento settimanale. Tutto centrato sull'Europa. Lo sapete, l'attualità economica, politica dell'Unione viene seguita giorno per giorno da Radio 24. Noi il sabato cerchiamo anche altri punti di vista, cerchiamo di respirare un po' la cultura europea. Lo facciamo a modo nostro e anche a modo vostro. Queste le coordinate per interagire con noi: facebook.com/l'altra Europa oppure Twitter @FedericoTaddia, dove pubblichiamo minuto per minuto tutti i link relativi agli argomenti che andiamo a toccare, oppure la mail altraeuropa@radio24.it. Ogni settimana un viaggio. Oggi si parte dalla Spagna, dalla Galizia. Estos fieles ni están muertos, ni es Halloween, ni tienen complejo de Drácula. Es algo más que un simple coqueteo con la muerte. ¿Un poco de yuyu? No, un poco de respeto, sí. Pero nada, es como llevar un santo. Una cosa muy, muy seria esto. Salen en estos féretros en agradecimiento por haber salido victoriosos de una enfermedad y por haber esquivado la muerte. Muertos que lo pueden contar. Por nietos y mis hijas y por mí misma y por todo. Quello che state ascoltando è un servizio di un telegiornale che parla di questa festa, di questa particolare festa che il quotidiano inglese The Guardian ha etichettato come la seconda più strana al mondo. È la fiesta de Santa Marta, è una sorta di festa dei quasi morti, di chi durante l'anno è andato lì per appunto terminare il passaggio su questa terra e invece per un motivo o per l'altro ce l'ha fatta, è scampato al destino, e quindi tutti questi si ritrovano a festeggiarsi di fatto a San Nieves durante la fiesta di Santa Marta. E per capire di cosa si tratta, perché anche questa è cultura europea, andare a cercare quelle che sono le iniziative, le feste, le celebrazioni, i riti anche più curiosi, più antichi che vengono celebrati nel nostro continente, abbiamo invitato Diego Vázquez Domínguez, ingegnere edile, uno dei fondatori del portale Italiani in Galizia. Ciao Diego. Ciao Federico, buongiorno. Buongiorno a te. Intanto noi ci siamo già sentiti qui all'Altra Europa, però ricordaci cosa fai in Galizia e che cos'è anche il portale che hai fondato. Vabbè, è più che un portale, è un gruppo di gente che ci siamo riuniti per rincontrarci un po'. Ci sono tanti italiani qui in Galizia, io al mio ritorno dall'Italia volevo continuare a avere il rapporto per poter parlare, fare due chiacchiere, e abbiamo messo in moto questo gruppo e così facciamo qualche cosa, qualche evento, ci raggiungiamo, parliamo. Insomma, un modo per tenere allacciati rapporti nati tra l'Italia e la Galizia. Diego, parliamo invece di questa fiesta poco conosciuta in Europa, molto nota in Galizia. Di cosa si tratta? Tu l'hai vista, l'hai vissuta in prima persona? Io non sono proprio stato là, sì? Ma tutti gli anni parlano della festa perché è una cosa molto particolare, molto particolare. Si tratta di gente che ha avuto grossi problemi, malattie, e alla fine ha fatto il sorpasso di questa cosa brutta, e per ringraziare si mette dentro di una bara con proprio il vestito che pensava di portare al suo funerale, e si fa una processione. Lo portano i suoi familiari o i suoi amici. Perché esatto, c'è anche questo aspetto apparentemente macabro, invece che fa parte proprio della celebrazione, no? Perché sono miracolati quelli che di fatto sfilano in questa processione, i credenti per ringraziare, i non credenti comunque per esserci, e di fatto sfilano all'interno di una bara aperta come segno di ringraziamento, e attorno migliaia di persone che seguono l'evento. Sì, è proprio così, ma no, non tutti gli ani sono persone che fanno la processione dentro la bara. A volte una persona, a volte tre, e a volte ci sono stati anni che non c'è nessuno che lo fa. No, cioè vuol dire che è stata un'annata o particolarmente fortunata o particolarmente sfortunata, quindi. E come mai che c'è tanta partecipazione? Nel senso che è una cosa molto sentita dal punto di vista religioso o è proprio l'aspetto curioso della fiesta che attira così tante persone? No, immagino che ci sarà un po' di tutto, ma qua in Galizia il sentimento religioso per santi che fanno miracoli o che sono proprio, non lo so, hanno proprio, per dirlo, quasi tifosi, gente che va tutti gli anni a fare il giorno del santo, il suo omaggio al santo. La morte in Galizia è una cosa che sta sempre presente, una relazione, non lo so come spiegarlo bene, però è quello, gente che tutti gli anni va a vedere il suo santo. Vengono pure gente che sono emigrati a Svizzera, a Germania, ritornano al suo paese per la festa del santo. Diego, tu appunto ci parlavi prima del portale, quindi hai fatto anche della contaminazione culturale una tua cifra. Hai mai parlato con qualche straniero, per esempio, qualche italiano che è stato alla festa? Cioè, quali sono le reazioni che ti hanno riportato? Questo non l'ho fatto mai, parlare con qualcuno che sia stato proprio lì, no, però con italiani e gente che viene qua, proprio adesso sto in Finisterre, Finisterre dei Romani, e qua davanti a me passano i pellegrini che vengono del Santiago de Compostela e arrivano alla fine del mondo. E fa 5 minuti era un gruppo di italiani che sono passato davanti a me, li ho sentito parlare, e poi arrivano là al faro che è alla fine del capo del Finisterre, che vengono da Santiago. Certo, insomma, anche qui, no? Un pellegrinaggio in parte religioso, in parte turistico, comunque sì, proprio sì, la voglia di mettersi in moto. Diego, mi hanno scritto negli appunti, tu appunto sei ingegnere, mi dicono che sei l'unico dei tuoi colleghi ingegneri che in questo momento sta lavorando, si sente tanto la crisi anche in Galizia. Vabbè, non lo so se sono proprio l'unico, però che sta lavorando proprio nel campo dell'edilizia ci sono pochi, perché questo è sicuramente il gruppo più colpito della crisi, quello che era dipendente dell'edilizia, perché si è fermato tutto. Quindi insomma è una crisi profonda, così come ci viene raccontata, quella che vivete anche lì. Abbastanza profonda, sì. Siamo in un momento proprio brutto. E qual è l'umore? Quello di rassegnazione, quello di speranza, quello di attesa? C'è gente di tutto, c'è gente che è rassegnata, che non si può uscire di questa crisi, non si può fare nulla, e poi c'è altra gente che ha deciso di prendere le cose e ricominciare da altra parte o fare altre cose. Quindi reinventarsi comunque futuro, assolutamente un presente. Ci sono già un paio, 3-4 anni di crisi, la gente ha visto che si deve fare qualcosa, perché sennò non si esce così, se seduto a casa non si fa nulla. Assolutamente. Grazie davvero Diego per la tua testimonianza, ricordiamo ad Asnieves la fiesta de Santa Marte, la festa dei quasi morti fino al 30 luglio, quindi in questo weekend. Ciao e buona estate Diego, grazie davvero. Ciao, saluto a tutti. Ciao, un euro post-it, le informazioni per chi sta viaggiando, poi ancora qua con l'altra Europa. Euro post-it. Chess Boxing, sport per bruti col cervello. Forza bruta e calcolo strategico sono le qualità che gli appassionati di questo nuovo sport devono avere. Il chess boxing, il pugilato combinato con gli scacchi, è una disciplina nata una decina di anni fa. Risale infatti al 2003 il primo campionato del mondo di questo poliedrico sport. Sono 11 round tra destri, alfieri, ganci e torri. Dopo aver ricevuto un pugno ben assestato, scegliere una strategia di gioco pare davvero un'impresa epica. I campionati del mondo 2012 si svolgono a Berlino proprio stasera alle 21. Se siete nei paraggi, fate un salto al Platoon in Schönhäuserhalle. Per maggiori informazioni, visitate il sito della World Chess Boxing Organization www.cbo.org. Nadando, però muy hondo. Muy hondo. Casi se ahoga más persona. Por ahí no puede pasar que no sepa nadar. Porque se ahoga. Muy al oscuro. No saber camino ni nada. A suerte o verdad. Wow. Sì. Yeah. Non siamo in Europa, siamo alle porte d'Europa. Siamo ad Evros. Questa è una delle tante voci che ascolterete da lunedì, dal 30 luglio alle 13.15 con Giampaolo Musumeci. Torna Nessun luogo è lontano, le notizie che fanno le prime pagine dal mondo e dall'Europa. E Giampaolo è qua con noi. Ciao Giampaolo. Ciao Federico, buongiorno. Buongiorno ascoltatori. E non solo Europa, tanto mondo, ma anche tanta Europa nel tuo programma, dove seguirai un po' quella che è l'attualità politica. E abbiamo scelto un luogo simbolo che tu hai conosciuto, che tu hai frequentato, ed è una sorta di ponte tra l'Europa e il resto del mondo. Sì, la voce che avete sentito concitata era quella di una ragazza dominicana che ho trovato all'alba, sulle sponde del fiume Evros. Aveva appena passato appunto questo fiume che è il confine tra Grecia e Turchia, che è la porta d'Europa per l'immigrazione irregolare di quest'anno, anzi è un paio d'anni ormai che si è spalancato quel cancello. 55.000 migranti irregolari l'anno, le rotte, i luoghi dell'immigrazione cambiano continuamente anche a seconda della politica europea. L'abbiamo visto, gli accordi italo-libici hanno chiuso la rotta di Lampedusa, immediatamente migranti e trafficanti di uomini trovano un'altra porta di accesso. Per cui abbiamo indagato quello strano luogo che sono questi 150 km di confine segnati da un fiume. È una zona militarizzata dove non si poteva andare, ma noi ci siamo andati. E insomma vi racconteremo testimonianze di migranti, degli operatori umanitari, per descrivere quella che è un po' una crisi nella crisi greca. Esatto, perché comunque la crisi greca ha amplificato il problema di questa striscia, no? Perché nei periodi di crisi poi si cerca sempre il caprio espiatorio e lì l'hanno trovato. Beh sì, nel senso che alla fine in qualche modo l'allergia al diverso in quelle zone sembra crescere. I greci dicono, beh, non c'è pane per noi, figurarsi se dobbiamo darlo a migliaia di afghani, pakistani, nepalesi, ma anche, come avete sentito, dominicani che fanno viaggi incredibili. Perché? Perché l'accesso in Europa ormai è facile solo da quella zona lì. Per cui dalla Repubblica Dominicana questi ragazzi hanno preso un aereo, sono arrivati in Somalia, dalla Somalia sono andati a Istanbul e poi da Istanbul a piedi fino appunto al fiume Evros, dove li ho incontrati. E questo bizzarro, drammatico pellegrinaggio ci porterà fino alle Olimpiadi? Sì, perché in qualche modo c'è un lato oscuro, no? delle Olimpiadi londinesi, perché a pochi chilometri da Londra, passando la Manica, c'è un porto che si chiama Calais. Noi c'eravamo già stati 4 anni fa per un ciclo di radiodocumentari che si chiamava Inshallah Europa. Indagavamo i non luoghi dell'immigrazione. A Calais sembra che nulla sia cambiato. È un porto importante, come Patrasso in Grecia. I migranti si ammassano lì per tentare di nascondersi nei camion e tentare appunto di passare la Manica e arrivare nel Regno Unito. Perché il Regno Unito? Perché l'Europa è in crisi, l'Inghilterra sembra ancora un Eldorado. Dal punto di vista invece della legislazione è il paese top per la concessione del diritto d'asilo e quindi è una meta in qualche modo appetibile. E Calais mostra ancora una volta il suo lato oscuro: la polizia è piuttosto rigorosa nel far rispettare la legge, per dirla con un eufemismo, ci sono parecchie denunce da parte di associazioni come No Border che denunciano i metodi violenti. E la polizia in passato ha sgomberato quello che erano degli accampamenti che gli afghani o gli africani facevano in attesa di potersi imbarcare. Ma il risultato è che gli migranti sono ancora lì, il numero è sempre alto e semplicemente il fenomeno è più nascosto. E Calais mostra segni di indifferenza, i cittadini non ne possono più, la paura del diverso è sempre lì, pronta a attanagliare, no? E quindi la situazione è piuttosto tesa. Fra l'altro, negli ultimi sei mesi ci sono state anche due morti misteriose, due migranti misteriosamente caduti in un canale, sui quali ancora la polizia non riesce a far luce. Come sempre, ed è il tuo stile, tante voci, tante storie, tante testimonianze in presa diretta, come quella di John che andiamo ad ascoltare, ce lo vuoi Sì, John è un personaggio che ho incontrato proprio a Calais, mi ha colpito perché in mezzo a questi migranti vestiti male, sporchi, stanchi, eccetera, c'era questo ragazzo con gli occhiali da sole, ben vestito, scarpe alla moda, e allora gli ho fatto un paio di domande. Ascoltiamolo. John, 27, from Syria, Damascus. Mi chiamo John, ho 27 anni e vengo dalla Siria, da Damasco. Ho lasciato il mio paese perché è molto pericoloso almeno da un anno e mezzo a questa parte. Ogni giorno bombe, spari, urla di donne e bambini in ogni città. La polizia ricerca e cattura soprattutto uomini che vengono messi in prigione semplicemente perché sorpresi a camminare per strada. Ti catturano anche solo perché stai aspettando l'autobus. Ti ammanettano, ti sbattono in auto coprendoti gli occhi per non farti vedere dove ti stanno portando. Dopo due o tre ore ti ritrovi in una stanza, ti fanno delle domande. Perché eri in strada? Che cosa stavi facendo? Ti picchiano, ti insultano e ti urlano addosso. E magari tu non stavi facendo nulla, camminavi solo per la strada. Questo è il nostro governo. Ti accusano di essere un ribelle senza lo straccio di una prova. Mia madre e le mie sorelle sono in Inghilterra dal 1993. Vivono e lavorano là. Sono arrivato qui in Francia, a Calais, per cercare di raggiungere la mia famiglia e vivere in un luogo sicuro. Tutto qui. Non so ancora come farò ad arrivare in Inghilterra. Sono qui da ieri. Ho già incontrato un paio di siriani e stiamo discutendo sul da farsi. Anche questa è l'altra Europa. E Giampaolo Musumeci, insieme all'altro mondo, la racconterà in Nessun luogo è lontano da lunedì per 5 settimane alle 13.15 in diretta qui su Radio 24. E Giampaolo, per chi fa il tuo lavoro, che è quello di giornalista, ma anche quello di inviato, ma anche quello di chi va a scavare, di chi va a cercare, di chi il territorio lo respira anche correndo tantissimi pericoli, esistono tante altre Europe, nel senso esistono tante sacche comunque non evidenziate, non palesate, non narrate? Beh, quello è indubbio. Credo che queste sacche, questi lati oscuri, no? Come un po' è Calais o come un po' Evros, abbiano una forza dirompente proprio nei momenti di crisi, in cui appunto in Europa è presa da questa crisi economica, non riesce assolutamente a gestire il fenomeno migratorio se non appunto chiudendo le porte. Io lo ripeto sempre, non credo sia la soluzione, perché chiuso una porta poi se ne apre un'altra, con tutti i rischi, le lunghezze, i costi del caso. I migranti moriranno di più, spenderanno più soldi. Per il punto è che la gente vuole arrivare in Europa, quindi probabilmente ci vuole una visione politica differente, probabilmente accordi con i paesi di origine per sviluppare quelle economie e magari qualche guerra in meno, perché come nel caso di John Siriano, lì non è una questione economica, c'è una guerra, non ha nessuna intenzione di tornare a Damasco per rifare il visto per gli Stati Uniti. Racconti il macro partendo dal micro, basta essere giornalisti per andare a scavare nelle storie di queste persone, bisogna essere qualcosa in più? Ma questa è una domanda interessante. Credo che la cosa fondamentale sia l'empatia, la simpatia, no? In senso etimologico, cioè nel far vibrare le proprie sensazioni con quelle delle persone che incontri, non essere io sono anche fotografo, mi riesce malamente, ma la regola del fotografo è sorprendere senza essere sorpreso, no? E quindi entrare nelle situazioni in punta di piedi, cercando di non rovinarle, di non stuprare, passami il termine, una situazione che tu vuoi analizzare, vuoi indagare, e quindi farlo in punta di piedi, cercando di accogliere le storie senza entrare nelle situazioni a muso duro o a petto largo, perché non è quello il lavoro, ecco. Grazie Giampaolo, in bocca al lupo per questa tua avventura estiva. Crepi, grazie a voi. Europostit. Stage retribuito a Bruxelles in difesa dell'ambiente. L'organizzazione non governativa Friends of the Earth, con sede a Bruxelles, è in cerca di uno stagista da inserire nel proprio management team. L'organizzazione si occupa di progetti mirati alla sostenibilità e alla protezione dell'ambiente attraverso l'azione concreta sul campo. Il tirocinio, che potrà durare dai 6 agli 8 mesi, partirà a settembre e prevede una retribuzione di 800 euro mensili. Lo stagista ideale, che deve parlare un inglese eccellente e saper lavorare in modo indipendente, affiancherà la squadra di management nelle mansioni quotidiane, nell'organizzazione di eventi e nelle attività di fundraising. Se interessati, visitate il sito foeeurope.org. Tante, tantissime volte, anche andando controcorrente, abbiamo messo la cultura al centro di questo processo che si chiama Europa, e cultura è musica, cultura è teatro, cultura è riuscire a raccontare anche un paese, una nazione, una crisi attraverso le mille arti. Ed è quello che è successo, di quello che sta succedendo ancora a Bologna, dove è stata presentata una rassegna estiva promossa da Teatri di Vita, intitolata Cuore di Grecia, un evento interamente dedicato al paese fratello, amico, vicino, al paese di cui tanto abbiamo letto e stiamo leggendo, in profonda crisi economica che può anche diventare, avere mille derive, come quella di una crisi culturale, perché vanno a mancare i fondi, vanno a mancare le risorse, ma va a mancare anche quella che è l'entusiasmo, quella che è la voglia. E proprio a questo hanno pensato a Teatri di Vita dal 12 al 29 luglio, quindi siamo quasi alla fine di questa bella fratellanza, cinema, danza e musica per raccontare la Grecia, e anche tanti eventi collaterali, tra i quali quello promosso e quello ideato da Margherita Dehan, metà greca, metà italiana, corrispondente di Radio Popolare da Atene e amica anche dell'altra Europa. Ciao Margherita, ben ritrovata. Ciao, ciao, ciao. Buongiorno. Tra le tante iniziative ce n'è una che mi ha colpito in modo particolare, si chiama Lettere dal fronte interno ed è stata curata da Margherita Dehan. Margherita, che cosa sono queste lettere? Chi le ha scritte? Come sono nate? Queste lettere precedono, in sostanza, lette all'apertura di ogni serata del festival, e sono scritte da un cittadino greco o che in Grecia lavora e vive, verso un corrispondente italiano, il quale poi nei teatri, nel corso del festival, ha letto e legge queste lettere. Quindi diciamo che il senso ultimo è quello di far parlare di una quotidianità anche personaggi che diciamo hanno una postura, una posizione scientifica, per cui ci si trova di fronte a un'aspettata umanità nella lettera, per esempio di un economista come Varoufakis, che è stata scritta diretta al corrispondente italiano, che poi appunto l'ha letta. E la lettera, di solito le lettere sono state scritte in greco e tradotte poi in italiano per la lettura, e quindi ci sono varie, diciamo, unità, vari capitoli, come dire, della vita quotidiana greca, che sono sicuramente quelli importanti, diciamo, l'economia, la ricerca, l'architettura, ma anche cose un po' più quotidiane come lettere scritte da studenti liceali, per esempio, oppure da poeti, e nel mio caso, vabbè, da giornalisti, io faccio la corrispondente, che scrivo una lettera rivolta a Brunella Torredin, che poi di La Repubblica, che poi l'ha letta al pubblico italiano. Mm-hmm. E che quotidianità è uscita da queste lettere? Beh, è uscita una quotidianità ovviamente un po' triste, però anche, come dire, consapevole, secondo me, del fatto di vivere in situazioni eccezionali per le quali è richiesta una forza eccezionale, se mi è permesso poi dire anche un po' la mia opinione, per affrontare quello che succede, soprattutto poi ovviamente nel caso di scrittori, diciamo così, più giovani, i quali devono affrontare un futuro alquanto incerto. Ecco, si è parlato spesso, raccontando la crisi greca, di una sorta di rassegnazione del popolo greco. Questa rassegnazione traspare dalle lettere che avete ricevuto? Più che rassegnazione, direi che traspare una certa rabbia. Una certa rabbia per quello che è successo e soprattutto rabbia nelle generazioni più giovani rispetto alla generazione immediatamente precedente, perché si sentono in sostanza di stupire delle cose per le quali non hanno assolutamente colpa e di pagare conseguenze di errori che non sono loro, da una parte. Dall'altra c'è anche molto consapevole la posizione per cui la Grecia in realtà è soltanto uno dei mille tasselli di una crisi che è molto più grande rispetto alla piccola Grecia, al piccolo popolo greco, per cui sì, ci sono degli errori, ma come dire, non bastano da soli a spiegare il disastro che sta vivendo la Grecia in questo periodo. Mm-hmm. Ecco Margherita, tu in parte hai vissuto anche il festival, si riesce a raccontare una nazione in crisi attraverso le arti? Ma secondo me sì, nel senso che il lavoro fatto da Adriatico e Casi, cioè dai teatri di vita, è molto bello proprio perché ribadisce come nonostante la crisi in realtà in Grecia stiano succedendo delle cose molto interessanti, molto importanti, sia a livello di produzione teatrale che di danza o di cinema. La cinematografia greca in questo periodo sta vivendo veramente una primavera, forse, per cui senz'altro il festival è stato aperto da un film di Angelopoulos che è un personaggio storico, ahimè morto in primavera, della cinematografia greca, però ci sono molte realtà nuove che il festival Cuore di Grecia è riuscito, secondo me, a ben rappresentare attraverso poi la scelta che è stata fatta del programma stesso. Certo. E quindi diventa in realtà poi una forma di resistenza, non voler lasciarsi andare a tutte le ripercussioni, soprattutto economiche, sulla vita culturale greca. Margherita Dean, grazie davvero. Ricordiamo anche il tuo blog margheritadean.wordpress.com. Ci ritroveremo sicuramente prossimamente per raccontare la Grecia, la tua Grecia. Va bene, grazie mille. Ciao, buon sabato. Buongiorno. Europost-it. Quando lo sport è gioco sporco, ecco le Olimpiadi nel fango. Accade a Brunsbüttel, nel nord della Germania, proprio alla foce del fiume Elba. Domenica 29 luglio, solo due giorni dopo la cerimonia di apertura dei Giochi Olimpici di Londra, si terranno delle Olimpiadi un po' diverse, sicuramente molto più sporche perché il campo di gara è una vera e propria palude melmosa. Le Vattolimpiade sono in realtà un evento benefico piuttosto divertente sia per i concorrenti che per gli spettatori, che finora ha raccolto più di 150.000 euro. Tra gli eventi sportivi ricordiamo il torneo di pallavolo, di calcio, di pallamano e la seguitissima staffetta. Il tutto rigorosamente immersi in quasi mezzo metro di fango vischioso. Se vi trovate da quelle parti e avete voglia di sporcarvi per una buona causa, visitate il sito vattolimpiade.de. Parliamo di vacanze, parliamo di turismo, è un po' anche lo spunto lanciato questa settimana da Euronet, euronet.io, il portale del nostro network paneuropeo per raccontare l'Europa da tanti punti di vista diversi, con tante voci, tante lingue diverse. Lo spunto è proprio una domanda: le vacanze in Europa sono abbastanza sicure? Si parla di sicurezza a 360 gradi, c'è la macro sicurezza, quella legata per esempio agli attacchi terroristici, prendendo spunto da quello che è successo in Bulgaria una settimana fa, ma si parla anche di sicurezza nella quotidianità, perché si è all'estero, perché si è in giro, perché si pensa che tutto vada bene, poi magari c'è qualche complicazione, qualche contrattempo, dal piccolo problema di salute al perdere i bagagli a, che ne so, promesse non mantenute da un tour operator. Beh, per tutto ciò l'Europa ha fatto e sta facendo molto per capire cosa vuol dire parlare di sicurezza di chi viaggia. Abbiamo invitato Michele Cercone, che è portavoce della Commissione Europea per gli affari interni. Ciao Michele, benvenuto all'Altra Europa. Buongiorno, buongiorno a tutti, buongiorno. E ai radioascoltatori. Tu quando viaggi in Europa, da semplice cittadino, non in veste ufficiali, diciamo, ti senti sicuro? Mi sento più sicuro adesso di diversi anni fa, quando ho cominciato le mie esperienze, perché ho a disposizione una serie di strumenti che mi permettono di viaggiare, me e la mia famiglia, in maniera in una maniera in cui se succede qualcosa so che c'è una maggiore attenzione e una maggiore sicurezza. Qualche esempio proprio pratico: la carta sanitaria europea, che permette di avere accesso alle prestazioni sanitarie in tutte le strutture pubbliche europee alle stesse condizioni dei cittadini dello Stato membro in cui ci si trova, il numero unico di emergenza europeo, per cui basta girare lo stesso numero in tutti i paesi per avere accesso al primo soccorso, ma anche tutta un'altra serie di innovazioni, di strumenti che permettono di essere più sicuri, per esempio sul web quando si acquistano biglietti o si fanno transazioni in vista delle vacanze. Diciamo che la tavolozza di strumenti che l'Europa ha messo a disposizione dei viaggiatori negli ultimi 10 anni è sicuramente di grande rilievo. Non ultima arrivata anche la lista nera delle compagnie aeree, che permette a chi viaggia in aereo di essere sicuro che quando si affida la propria vita e i propri beni a una compagnia aerea, questa è assolutamente affidabile, che ha passato controlli rigorosissimi e che tutte le compagnie che non rispettano questi tipi di controlli e di standard non possono atterrare né decollare da aeroporti dell'Unione Europea. Certo. Sai che lo sai meglio di me, no? Che i cittadini hanno bisogno di risposte pratiche, per esempio alla macro domanda cosa serve l'Unione Europea. Ecco, questo è un caso dove le risposte sono tante, proprio perché vanno a toccare nel concreto, no? La quotidianità. E, grazie all'Unione Europea ci sono risposte a domande tipo: chi mi può aiutare se ho un'emergenza medica? Chi devo chiamare in caso di emergenza? Per esempio c'è il 112, che è un numero unico d'emergenza europeo. Questo in pochissimi lo sanno. Cosa devo fare? Chi devo chiamare se il mio bambino si perde? Ecco, anche qui c'è un helpline telefonica comune. Sono risposte importanti queste? Sono risposte importanti. Noi è chiaro che da Bruxelles cerchiamo di diffondere il messaggio. Poi un grande sforzo lo chiediamo agli Stati membri, perché vogliamo che tutto questo insieme di strumenti siano visibili, siano conosciuti. Difficile farlo a livello centrale, ma devo dire che ultimamente gli Stati membri sono diventati più coscienti del loro ruolo. Ad esempio mi è capitato anche lì, esperienza personale, però in tutti gli aeroporti europei in cui mi sono trovato a viaggiare è chiaramente esposta in maniera ben visibile la lista dei diritti dei passeggeri in caso di overbooking, in caso di ritardi eccessivi, in caso di diritti per i disabili. Diciamo che comincia a esserci anche una visibilità di queste misure che è sempre maggiore. Ci sono ancora sforzi da fare, per esempio sul numero unico ci rendiamo conto che bisognerebbe pubblicizzarlo meglio, stiamo lavorando con gli Stati membri, ma anche per far capire ai consumatori come ci si muove sul web in maniera sicura, quando si fanno transazioni acquisti, che ci sono delle regole che valgono dappertutto all'interno dell'Unione Europea che permettono di difendere i propri diritti di consumatori. Sono tutti elementi su cui chiediamo e insistiamo molto perché gli Stati membri pubblicizzino meglio, perché i cittadini europei devono conoscere, visto che questi strumenti ci sono e sono molto molto utili. Eccoci qua ancora con Michele Cercone, portavoce della Commissione Europea per gli Affari Interni. Stiamo parlando di vacanze sicure, di diritti del cittadino. E stavo pubblicando, Michele, su Twitter il link per l'applicazione, per scaricare l'applicazione I vostri diritti sono sempre con voi, che è una delle novità presentate in queste settimane. Eh sì, stiamo lavorando per, come dicevo prima, per pubblicizzare il più possibile i diritti, e quindi ci rivolgiamo anche a un nuovo settore, che è quello dei nuovi media, della comunicazione sociale, di tutto questo sistema che si è piano piano sviluppato, ma che tocca sempre più persone. E l'idea di avere a disposizione applicazioni, siti internet, di avere a disposizione informazioni che siano disponibili anche per fasce di età più giovani, che hanno accesso molto più semplificato a questo tipo di tecnologia, è fondamentale, anche perché poi molti dei viaggiatori, diciamo, soprattutto in questo periodo estivo, sono giovani che si spostano, si muovono, quindi dare loro degli strumenti che siano sulla stessa lunghezza d'onda delle loro attività quotidiane gli permette di avere un accesso semplificato e gli permette di conoscerli meglio. Ma naturalmente sono strumenti a disposizione di tutti e ci muoviamo come sempre a 360 gradi. E appunto, per dare un ulteriore esempio di cosa voglia dire muoversi a 360 gradi, si parla di: ho prenotato un viaggio tutto compreso, ma il mio tour operator è fallito, posso ottenere rimborso? Oppure come evitare tariffe e costi esorbitanti nell'utilizzo del cellulare in Europa? Oppure cosa fare se si vuole portare con sé l'animale domestico? Insomma, veramente domande molto diverse tra di loro, ma che raccontano una quotidianità, una normalità del viaggiare in Europa. Darei il sito, che è ecce.europa.eu, dal quale insomma ci sono i vari link per trovare risposte a tutte queste domande o portare anche ulteriori domande, perché siete lì pronti e reattivi alle esigenze dei cittadini. Grazie davvero Michele e buona estate, buona vacanza anche a te. Grazie a voi, a presto. E continuiamo a parlare di cultura ed Europa, e lo facciamo con questo coro. Perché? Perché ieri si è aperto il sipario su Europa Cantat, la 18ª edizione, il più importante festival corale europeo, in programma a Torino e in Piemonte fino al 5 agosto. Sono in arrivo oltre 4.000 partecipanti, quindi veramente tantissime persone per questo festival sostenuto da Unione Europea, Programma Cultura, dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri, dal Ministero per i Beni e le Attività Culturali, la Compagnia di San Paolo, la Camera di Commercio di Torino, insomma veramente tante istituzioni. E con noi c'è Sonia Greiner, che è il segretario generale di European Choral Association, l'Europa Cantat, l'associazione europea che organizza il festival. Ciao Sonia, benvenuta all'Altra Europa. Grazie, buongiorno, ciao. Si canta a Torino e in Piemonte, quindi, in questi giorni? Sì, si canta molto, penso. Si canta in piazze, in chiese, ma anche in il pullman, in la strada. Si canta moltissimo. Ecco, come mai proprio i cori? E cos'hanno i cori da poter dire in questo percorso di Europa Unita? Penso che la musica corale è una possibilità molto buona di portare persone insieme. Vuol dire che quando si canta insieme non si ha bisogno di parlare molto, vuol dire anche che persone di diversi paesi possono comunicare attraverso la musica, attraverso il cantare comune, e anche all'ascoltare la musica o sentire la musica di un coro di un altro paese si capisce un po' della cultura di un altro paese, si conosce un po' il paese. E si può parlare con dei giovani, chiedere cose, fare amici di tutta l'Europa. Ecco, ci sono nazioni dove la cultura del coro immagino sia più profonda rispetto ad altre. Quali sono un po' le nazioni pilota, se esistono? È difficile sempre dire che sono nazioni che cantano di più, ma diciamo che tradizionalmente in la storia sono nazioni come la Germania, dove si canta moltissimo, dove c'è una cultura di canto molto importante, anche molto cori maschili, ma anche in Belgica, in Svizzera abbiamo molti membri, e soprattutto forse nei paesi del Baltico, come Estonia, Lituania, Latvia, hanno una cultura corale molto importante, e anche là il canto si è utilizzato per la liberazione, diciamo. Loro dicono sempre che hanno fatto la rivoluzione cantata, hanno andato a strada per cantare, e così hanno fatto la rivoluzione. Ma anche in Italia Noi stiamo vedendo negli ultimi anni un sviluppo molto importante della coralità e vediamo che si canta molto di più, si canta a un livello molto più grande e siamo molto lieti di avere in le 4.000 partecipanti 1.200 coristi italiani, che è un risultato molto bello. Il festival si tiene ogni 3 anni e possono partecipare sia cori amatoriali sia cori più professionali che vengono appunto invitati. Come mai è stata scelta Torino per questa edizione? Sì, noi andiamo tutti i 3 anni a un altro paese, un'altra città. Ogni paese, ogni città che è interessata può fare una domanda, dico sempre un po' in piccolo come si fa per le Olimpici, si fanno proposte. E in caso di Torino, l'Associazione del Corale di Italia, la Feniarco, ha fatto una proposta. Noi abbiamo venuto a Torino per vedere la città, abbiamo pensato che questa città è ideale per un festival come il nostro, perché è una città grande ma il centro storico molto compatto, si può fare tutto a piedi nel centro e soprattutto le piazze e le portici sono molto belli. Ci hanno ispirato idee nuove per fare nuove cose in questo festival e anche sono molte belle sale, teatri, chiese nel centro, si può fare moltissimo qua. Mm-hmm. E Sonia, un altro assaggio corale, così ci dici che cos'è e soprattutto ci racconterai veramente in sintesi quello che accadrà in questi giorni a Torino. Anche questo è quello che si ascolterà in questi giorni a Torino per Europa Cantat. Sonia, questo è un che coro è? Cosa stanno cantando? Cosa stanno interpretando? Non so esattamente che coro è, perché abbiamo 135 cori. Hai ragione anche tu. Non so quale sia ma abbiamo cori di tutto livello. Noi diciamo sempre che vogliamo fare qualcosa per tutta la piramide della coralità. Vuol dire che vogliamo che ogni corista, ogni coro può incontrare, può trovare ciò che serve per il suo livello. E diciamo che dopo può essere un coro piccolo di una chiesa, di un paese, e in cima della piramide sono le cori giovanili, sì, che sono appassionati o amatoriali, ma hanno un livello professionale. Dopo abbiamo anche cori ospiti e gruppi vocali ospiti che sono professionisti, così abbiamo davvero tutta la piramide della coralità. Mm-hmm. Tanto sono andato a scartabellare tra i miei appunti, era il coro Accademia Feniarco, diretta da Alessandro Cadario, insomma, così per essere precisi. E Sonia, grazie davvero, saranno settimane intense, settimane molto belle, tutti i concerti sono a ingresso gratuito, alcuni però devono essere prenotati. Tutte le informazioni di Europa Cantat 18 si trovano sul sito www.ectorino2012.it. Ciao Sonia, buon coro. Molte grazie, ciao. Ciao. Buon sabato. E questo grazie va a tutti voi per essere stati in nostra compagnia. Un grazie anche a tutta la squadra dell'Altra Europa, Margherita Ina e Viola Frifa, che con me hanno scritto la puntata, Roberto Scaltritti alla parte tecnica e Giorgio De Luca oggi in assistenza. Radio24.it è il sito, oppure ci trovate su Twitter @FedericoTadia oppure Facebook @L'Altra Europa. Adesso il GR, poi il Gastronauta. Noi ci ritroviamo qua come sempre sabato prossimo alle 10. Ancora ciao da Federico Taddia.